Il pensiero. Per comprendere lo sviluppo del dogma è fondamentale tener presente la storia del pensiero e delle idee, in particolar modo l'idea di infinito e di tempo. Come spiega Romano Guardini ne La fine dell'epoca moderna, per i greci la perfezione era rappresentata dalla sfera e i limiti non dovevano essere mai superati. Mancava loro un punto d'appoggio fuori dal mondo per poter contemplare il mondo stesso e farsene un'idea. Per questo regnava il relativismo religioso e veniva considerato empio il tentativo di superare le colonne d'Ercole. Addirittura i pitagorici si accorsero che la diagonale del quadrato è incommensurabile rispetto al lato, cioè che la radice di 2 è un numero irrazionale, e nascosero la scoperta per il terrore di fronte a una realtà che sfuggiva la possibilità di misurazione. Per i greci la storia non è rilevante, ma è pura ripetizione. La libertà dell'uomo non è dunque autentica. Con la rivelazione, invece, l'uomo si riconosce sempre come finito, ma può contemplare se stesso nell'amore di Dio, nel rapporto con Lui. Per questo si accorge di poter superare i limiti precedenti, si accorge del valore della storia e della persona umana con la sua libertà. La creazione è base di questo atteggiamento, poiché la coscienza della creazione dal nulla e della creazione dell'uomo ad immagine di Dio fondano sia la finitezza del logos umano, sia la sua capacità di trascendere il limite nella relazione con il Creatore. Il logos dell'uomo è infatti dono che rimanda all'oltre di Dio. Il Medioevo svilupperà questa visione organizzando la società e tutta la vita attorno alla cattedrale, posta al centro della città. Tutto ruota attorno a Dio, che permette all'uomo di sapere chi è, e quindi gli dà lo slancio per viaggiare, per commerciare, per agire sul mondo. È chiaro che la ragione medioevale agisce in libertà, ma sempre in dipendenza autoritativa rispetto al logos. Si entra in dialogo con tutti, arabi, greci, neoplatonici, e con fiducia nella forza della ragione e nella natura umana si costruiscono quei meravigliosi sistemi, vere cattedrali del pensiero, che sono le Summe. L'antico viene riconciliato con la rivelazione in forza del principio che Dio ha creato ogni cosa e che l'uomo ricerca sempre la verità. Nel Medioevo l'uomo si muoveva in un contesto che gli forniva l'accesso ad una cultura cristiana, anche se magari non sapeva nemmeno scrivere. Ciò gli permetteva però di vivere conoscendo il senso del suo esistere. Scrive Guardini in La fine dell'epoca moderna a proposito della Civitas Dei medioevale. Il momento presente della esistenza ha perciò un suo posto chiaramente avvertibile nel corso del tempo umano, posto tanto più importante poiché nella vita di ogni redento diviene operante l'incarnazione di Dio ed essa nel suo rapporto con l'eternità e con il tempo trasforma il semplice presente in un attimo che decide dell'eternità. Brescia 1984, pagina 26. Dal XIV secolo in avanti le capacità di indagine dell'uomo, sviluppatesi proprio grazie a questa visione unitaria del mondo resa possibile dalla rivelazione, che ha liberato l'uomo dalle paure ataviche, crescono sempre più e iniziano a distinguersi le scienze naturali da quelle umane e quindi dalla visione filosofica e teologica. Si dà un eccesso del commento rispetto alle fonti che spinge ad assolutizzare la capacità critica del singolo. Alla fine della scolastica si rompe l'equilibrio tra autorità e ragione, con una reazione nel senso dell'autonomia e dell'individualismo. Si elimina l'autorità e si sviluppa la cultura della violenza, Hobbes, Machiavelli. La Terra perde la sua posizione centrale con l'eliocentrismo e a poco l'uomo stesso passa in secondo piano, iniziando ad essere considerato solo individuo e materia. Così, secondo Guardini, con la modernità l'uomo che ha scoperto, grazie alla rivelazione, la capacità di accesso ad una dimensione infinita insita nel suo logos, in quanto partecipazione in Cristo al Logos Eterno, inizia ad attribuire alla propria autonomia questa capacità in modo analogo a quanto può avvenire all'adolescente nella crescita umana. In questa epoca l'indagine psicologica si centra sull'individuo, si esalta ciò che è umanamente straordinario, passando gradualmente ad una logica di prestazione che soppianta a livello generale la logica cristiana del dono. La natura non è più vista come creazione, cioè nel suo riferimento a Dio, ma inizia a considerarsi come dato immediato. La carica religiosa, della quale l'uomo non può fare a meno, viene riversata sulla visione della natura considerata ora buona e santa. Gli antichi vengono ritenuti espressione di questa natura pura e quindi in opposizione con la religione rivelata. Non si dà più continuità, ma contrapposizione tra pensiero e fede. L'io geniale viene idolatrato, la soggettività viene assolutizzata e la grande personalità inizia ad essere considerata superiore all'etica stessa. Si pensi all'esempio di Napoleone e al fascino romantico di questa figura. L'uomo si fa in un certo senso creatore e il mondo è concepito come infinito senza limiti. La terra diventa un luogo qualsiasi, l'uomo un essere qualsiasi. Per il Medioevo l'uomo si osservava da due punti di vista. Da un lato era creatura di Dio, dall'altro era portatore della sua immagine e perciò infinitamente superiore a tutte le altre creature. L'uomo era sempre sotto lo sguardo di Dio. Per l'uomo moderno invece c'è solo l'autonomia. La nuova concezione dell'uomo è contro Dio. Egli deve cercare di essere sempre più una parte della natura. Si riscontra qui anche, in un certo senso, l'origine del laicismo contemporaneo. Ma con la creazione non si scherza e non si può negare quello che si è. Tutto l'ottimismo si trasformò nel relativismo e nello scetticismo nel XX secolo, segnato dalle due guerre mondiali e dai totalitarismi. Si arriva così al pensiero debole, al complesso di Peter Pan, alla società di massa contemporanei. Si può dire che rispetto all'universo il problema moderno si traduce nel determinare l'origine del logos. Le proprietà della natura, le perfezioni, fino a che punto dipendono da Dio? Vengono dal caso, evoluzionismo filosofico, o sono frutto dell'impegno umano, Marx? Il logos dell'universo rimanda solo al suo interno, immanenza, o richiama un principio al di fuori di sé, trascendenza? Quando conosce l'universo, l'uomo è passivo, scopre o attivo, crea? Da questa domanda dipende la valutazione del pluralismo. Nel primo caso esso sarebbe inevitabile, nel secondo sarebbe solo conseguenza della limitatezza dell'intelligenza umana e quindi solo provvisorio. Nella modernità si segue più la prima strada per poi perdere la fiducia nel logos stesso, di fronte agli eccessi e ai fallimenti, marxismo, problema ecologico, liberismo. Per il cristianesimo, invece, il logos dell'universo deriva dal logos di Dio, cioè da Dio stesso, dal Figlio. Ciò mostra quanto sia essenziale il logos, il Figlio unigenito, e la dimensione filiale di tutta la creazione. Ambrogio ha scritto che Cristo è il seme di tutte le cose, in Psalmos 43:39. Così Atanasio affermava che tutta la bellezza del creato riporta al suo creatore e all'artista, cioè allo stesso verbo divino. Come già visto, la dottrina cristiana del Logos si appoggia terminologicamente sulla dottrina filosofica del Logos, sviluppata in ambito platonico, stoico e neoplatonico, ma solo a livello di forma espressiva. Infatti, per Platone solo ciò che è divino è reale, e per la gradualità, quanto più una realtà è divina, tanto meno ha rapporto con la realtà materiale. Spirito e materia sono antitetici. Ma il mondo visibile ha una sua intelligibilità che deve provenire da un'intelligenza superiore, cioè dal demiurgo. Egli guarda il modello eterno delle idee e poi organizza la materia caotica preesistente a partire da ciò che ha visto. È detto Dio. Ma la materia e le idee non dipendono da lui. Egli plasma, forma, ma non dà l'esistenza. La sua ragion d'essere è solo la fabbricazione di questo mondo. Si veda la netta differenza rispetto al Figlio, la cui unica ragion d'essere è l'amore del Padre. Filone era ebreo e neoplatonico. Egli modificò la dottrina platonica del demiurgo ricorrendo al concetto stoico delle ragioni seminali, logoi spermaticoi. Tra il logos divino, logos theios, e l'intelligibilità intrinseca delle cose, appunto i logoi spermaticoi, esiste il Logos, che è una divinità intermedia. Essa procede da Dio come prima creatura ed è incorporea e perfetta, è immagine di Dio. Grazie a questo Logos Dio creò il mondo. Questa figura è identificata con la sapienza e con la ragione divina che ha come ruolo la mediazione tra la creatura e il creatore, mediazione che separa l'uno dall'altro. La dottrina filoniana si basa sulla creazione dal nulla. Se appaiono tre principi, come in Platone, demiurgo, idee, materia, è sempre Yahweh però che crea le idee e la materia. Il platonismo è quindi presente nella forma, ma è superato nella sostanza. L'ontologia del dono è già chiaramente presente, per questo Filone scrive che il Logos esulta nel dono e lo annuncia. Quis rerum divinarum eres sit, 205. La sua dottrina sarà ripresa da molti dei primi padri, Giustino, Ireneo, Clemente, Origene, Atanasio, per esprimere il ruolo di Gesù Cristo, correggendo però la subordinazione del Logos rispetto al Creatore. Dalla visione gerarchica e graduale del sistema di mediazione necessaria platonico-aristotelico, che porta dal divino al mondo materiale, si passa all'unico mediatore, vero Dio e vero uomo. La dottrina trinitaria permette di distinguere perfettamente cosa è la creazione, in quanto solo le tre persone eterne sono identificate con l'unica natura perfetta ed eterna, mentre tutto il resto, angeli compresi, sono nature create dalla Trinità stessa. Atanasio usò l'immagine della creazione come cetra nelle mani del Verbo, che tutto accorda alla volontà del Padre. L'espressione ritornerà in molti autori ecclesiastici. Il mondo, la creazione, non sono altro che un bellissimo canto. La crisi ariana obbligò a distinguere il logos platonico da quello cristiano. Ario sosteneva che ci fu un tempo nel quale il logos non era. Atanasio rigettò la sua posizione. La loro divergenza è quella tra una religione viva e una filosofia intellettualistica. Ario non parlava mai dell'amore di Dio, era passato da una speranza di salvezza ad una speranza di spiegazione. Il mondo platonico vede una continuità ontologica in tutto il reale, facendo del Logos un essere subordinato a Dio che non dona l'esistenza ma solo forgia, in quanto limitato da un lato dalle idee e dall'altro dalla materia. Il Logos è concepito in funzione delle cose perché il bene possa diffondersi. Il Logos cristiano, invece, dona l'esistenza in quanto è Dio e nel reale si dà una discontinuità assoluta tra la sfera divina, Trinità, e la sfera creata. Per questo il Logos è consustanziale al Padre e non è limitato da nulla, né da Dio tutto ciò che è del Padre è suo, né dalla materia, perché questa non esisteva prima della creazione. Infine, è il mondo che è stato fatto a causa del Logos e non viceversa. La visione platonica è cosmocentrica, quella cristiana è logocentrica, o meglio cristocentrica. È fondamentale pensare che Dio non fu obbligato a creare il mondo per mettere ordine nel caos preesistente, ma che tutto è frutto del libero amore del Padre. Il Logos è il senso del mondo e non il mondo il senso del Logos. Ma ciò implica che il senso del mondo è l'amore del Padre. Il creato stesso viene colto allora come manifestazione dell'amore del Padre al Figlio. Il senso dell'universo è la filiazione, perché è l'amore del Padre che fonda l'essere. Nella filosofia platonica il mondo è necessario e il Logos contingente. Per il cristiano è il contrario. Perciò è fondamentale la doppia affermazione neotestamentaria sia dell'esemplarità sia della finalità del Logos, cioè della corrispondenza di principio e fine, di arché e telos. Tertulliano scrisse a proposito di Dio che plasma il corpo di Adamo. Tutto ciò che è stato impresso in questo fango era il pensiero di Dio, dell'uomo a venire, il Verbo fatto carne, la quale era allora solo fango e terra. De Resurrezione Carnis 6 PL 2 502b. È anche importante sottolineare il ruolo dello Spirito Santo che storicamente ha permesso di differenziare radicalmente la dottrina del Logos platonica da quella cristiana. Lo Spirito è infatti l'amore del Padre e del Figlio, e grazie ad esso ogni interpretazione della creazione nella linea di un demiurgo viene necessariamente meno. La creazione non ha origine dalla necessità, ma viene dalla Trinità come atto di amore. L'agire di Dio corrisponde al suo essere. Come Dio è in se stesso eterno amore del Padre e del Figlio, così ogni sua azione è puro dono d'amore.